Chi è davanti? Hola, hola. Come che va a chiamare? Hola. Chi è davanti? Bobolina, boboletta. Uè, ciao Lu, buonasera. E beh, Antu, se sei su Gazzina rimani, Ida. Sono attiviano a mezza, prima di mezzanotte e è successo una rissa. Con chi? Da Costantino. Orca puttana, chi è che ce l'ha parlato? Dico Roberto R. Porra! Caricacca. Magari chi su ripete strane? E chi su viva Rogodino. Era poi barracca che su tipo Iago a barracca. No, veramente. Ieri era Porto Torres io. Sei disperata quella là? Dopo ci passo per vedere un po', va. Hai chiamato un messaggio, ma hai risposto. Sì, ti ho risposto, perché ti ho risposto in ritardo. No, non tu, no, ma coso? Maria Teresa. Ah, la mamma di coso. Sì. Adesso dopo ci passo. Cioè, cazzo, ma quando vanno a Napoli finiti non afferrarsi, no? Era nara nara dalla salita. Va bene, Antu, dai, se ci sei più tardi, poi ti sta bene a casa, siamo rimasti a casa oggi, no? Siamo andati nemmeno al mare. Vabbè, siamo rientrati alle 3, e come si dice, e dobbiamo scendere in campagna, dai, ci sentiamo più tardi, ciao. Anche io, dai, sono attaccata. Ascolta, ma oggi apre, sai se apre? Sì, alle 8, se poi ho cambiato idea, prova. Alle 8, non apre sempre verso le 7? Poi alle 8 mi ha detto, dalle 8 iniziamo a karaoke. Ah, karaoke, alle 8 iniziamo. Ah, no, apre prima, apre. Sì, sì. Cioè, cazzo di alobo veramente, non si nulla, cazzo, manco da non si crede. Porca puttana, cazzo. Vabbè, ciao. Fatti un saluto e fammi sapere, ciao. Ciao, ciao. Chi è davanti? Chi sei? Prova, 1, 2, 3, prova. Luca, tu sei? Luca, tu sei da uscire. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, già ti provi. Però c'è qualcuno sta provando, non ho capito chi sia, arrivava a 9:20 da me. Vabbè, non l'ho contagliato nemmeno io, la verità. Mi sembrava la voce di Luca, però non risponde, ho detto, ma non mi sente, boh. Già si sente magari, a finta di non sentire. Avevo il caldo, sta questo fatto, mi sto sciogliendo in questa stanza, cioè. Ho messo un po' il ventilatore, però è un caldo, mamma mia. Tutti a perché ci si fa caldo, sì, che ho credo. Noi c'ho la finestra aperta, sta entrando il vento, meno male. Almeno sono a posto. Fuggi. Io c'era un caldo da preparare, cioè. Poi ha fatto 20 secondi di pioggia. Vedi, sono sceso dalla Catalona ieri da trovare degli amici, lì c'era una brezzolina, si stava bene, ti sposti in città, era un caldo da morire. Lì c'è caldo, lì al mare c'era caldo ieri, quindi già si sta bene, più o meno. Con questo vento che c'è lì, la Catalona per ottobre, se penso che mangi sabbia oggi. Ma già girato il maestrale, ieri c'era l'imbriccio e ha portato un po' di acqua sotto, però oggi e domani e dopo c'è maestrale, per cui è un po' più ventilata e c'è meno caldo. Martedì addirittura è previsto qualche schizzetto di acqua. Speriamo che abbiamo già le balle piene di questo caldo. Un casino, quando esci la mattina ti senti tutto molle molle, ti senti. E a te lo dici, poi la notte io già dormo male di per sé, con chi sul gas, devo tenere l'aria condizionata accesa tutta la notte, se no non riesco a dormire. Ho lasciato la finestra aperta, poi ci vai già un sette, entrati in comunità più che altro. Poi visto che stava piovendo, ho preso tutto. Mi sono svegliato più bagnato che altro. Sembrava che fosse stata Tantamona a farmi la sauna. Non so. Ieri notte sono andato a tardi a prendere la mia figlia all'aeroporto e ha piovuto il pezzettino che sono andato da dove era parcheggiata la macchina, erano 500 metri dal parcheggio, allora se buco oggi mi volto la doccia, come ci sono fatto dal parcheggio, ha smesso di piovere e l'ho già asciutto. Mi è andato bene, l'avevo rifatto tutti, ci avevo fatto. No, a parte la rugoletta, talmente c'era caldo, come sono arrivato l'ho già asciutto, perché ero in bermuda, in magliettina leggera, ho detto, oggi mi porto la doccia, mi sono bagnato, però come sono arrivato poi ha smesso di piovere alla macchina, poi dopo, vabbè, la macchina già stava piovendo un bel pezzo, ero già asciutto, infatti ho detto, sarò tutto uno straccio, una frazza, invece no. Se ti becca l'inverno ti trovi col cacchio di reumatismi un mese, con tutta l'acqua di ieri. Ah, quello sì, l'inverno è che non hai trovato grandine, che aveva buttato il cristallo. Il continente ne ha beccato un bel di macchia. Qualche anno fa ne ho fatto in officina ad Alghero, c'è stata una grandinata grossa, ha disintegrato un bel di macchine e chi non era assicurato si è arruinato una macchina. Magari dalla veretta difficilmente lo rompi, il lunotto se ce l'hai molto inclinato già lo rompe, ma la capota del cofano te la fa a coso, a suonetto. Il cofano è... infatti tutti si assicurano il cofano per quello, perché la parte più delicata che c'è nella macchina. Se lo fa più e l'hanno portato una quello vicino a me, il tipo il gommista, che le è successo in Svizzera un 4-5 anni fa, sembrava aver sorpreso a colpi di martello anche i raschi a retro, le plastiche, gli specchietti, li ha spaccato tutto, ma era nei cantoni, e ce ne sono 61. Diciamo, se sembrano palli da neve, non sembrano, anzi palle da golf sono quelle. Ma l'ha detto, erano palli da golf, meno male lui era in macchina, erano tutti incolonnati in dentro la città, per cui non potevano neanche spostarle le macchine per dire secondo come ti nascondi e vai in un posto riparato, invece erano proprio tutti in fila dentro la città, l'ha detto, tutte distrutte le macchine. È stata una tragedia, c'erano macchine, quei Touareg della Volkswagen, gli Audi Q8, Q8 non c'era, la Q7 che c'hanno il tetto in cristallo, tutti frantumati, c'era gente terrorizzata adesso perché ti arrivavano palline da golf in testa, lì c'erano terrorizzata la gente nascosta dentro la macchina che dice se ti arrivi un cantone a capo vai a tremare. Io credo che fa male. Meno male siamo ancora fortunati noi, i primi temporali che arrivano dalla parte nostra, che si apre qualche breccia, ci fanno nuovi nuovi anche a noi, sta salendo su in cielo. Non è la roba che si porta via, antenne, pali, radici, di tutto si buca. Diciamo, fortunatamente rispetto a certe altre zone di altre nazioni, tornado e cose del genere non ne abbiamo, anche la grande non è che fa molto grande da noi, non l'ho mai vista grande, più di un'unghia non l'ho mai vista, però se vai in continente dove ci sono le montagne, che di lì si incrociano le perturbazioni, aria calda con aria fredda, di lì ne arrivi, noi montagne non ne abbiamo, grazie a Dio, poi c'è sempre una brezzolina maestrale che ti raffredda l'aria gradatamente, ma in continente tipo zona di Milano, quelli che hanno le montagne e le Alpi davanti, che arriva tutto il caldo, stanno 10 giorni a 40 gradi e poi di colpo arriva l'aria fredda, si scontrano e vanno nei cantoni. Sì, già è vero, già è vero, lì lavorano bene la milistica, eh? E se no quelli che fanno piazzano di tutto, alla Arizona, ragazzi. Quest'anno proprio, guardate, ogni arena, l'ho visto ieri poco fa, mi sono filmato, c'è una poca di paesini tutti pieni di roccia, di fango, di... Per carità, qua lo fa poche volte, ma di là proprio allucinante, 7-8 metri, guarda, figurati, arriva quasi al tetto della casetta. Io lo so, grazie a Dio la Sassari da quel punto di vista siamo abbastanza protetti, non ce ne sono di colline o cose del genere, ma in certi paesi, se vai nella zona, in certe zone del Nuorese, della Valle Gallura, no, già ce n'è granito, in certe zone dove c'è terra e non c'è vegetazione, prima la volta c'è la vegetazione e tenere, ma rispetto a cosa ne esce adesso, tutti quei paesi, Puglia, di Tre Nuraghe, perché lì gli alberi reggevano la montagna, e lì è tutta terra, infatti era tutto vigneti e cose del genere. L'inverno mi aveva succede, ne farà tutto perché gli alberi ormai non reggeranno più la spinta. Ok, lasciamo un attimo il bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare. Avanti su 10, non ve ne sono, riprendi tu Antonio. C'è una paura di quello, infatti, se arriva dice bordate di acqua, c'è una paura di quello, se si allaga tutta quella zona di guaio, altro che fango, scende, fango, cenere, pezzi di cose, di alberi, tutto si brucia, se fa una passata di vento si trovi tutti gli alberi troncati, ti trovi. Ma poi nella zona, se tu vai nell'Oliata, quelle zone lì, è tutto pieno di fiumi, laghi, cose del genere, c'è la diga di lì vicino a Torpè, vicino a Posada, ogni anno l'inverno sono sempre in allerta che questa diga ne va a entrare in terra, infatti vengono ogni tanto svuotare, perché se si riempie troppo ne crolla, perché non è calcolata per avere tutta quella quantità d'acqua, infatti devono svuotare la diga e quando svuotano la diga ne allegano i moghi di terreno, infatti qualche volta è capitato che è morto pure qualcuno. Lo possono fare altrimenti, meglio cioè, diventa come il baglion diventa e l'aereo questo è il canadello, si intende? Cos'è il canadello, sta passando? Sì, questo è il canadello. Questo è esattamente diverso, quello arancione. Questo è il canadero, cioè c'è qualche punto dove c'è fuoco. Senz'altro. No, un elicottero, non è un canadero, è un elicottero, deve essere successo qualche incidente. Aspetta, sto guardando il radar. Che avanti, è un elicottero comunque, Antonio, quello della protezione civile, quelli gialli e coso. Diciamo sta andando in direzione di Usulo, è passato sopra di lui, sta andando in direzione di Usulo, probabilmente c'è qualche incidente, buh. Mi sembrava attaccato roba di coso, di aereo, se ricordo, vabbè, diciamo, sono diverso, perché a me ogni volta mi passa sopra al ritorno. Poi se ricordano la protezione dell'arancione. No, qua non c'è sbagliato, qua vedo tutti gli aerei che ci sono sopra la testa, è un elicottero, Leonardo ha avuto 139, e non c'è da sbagliare. Quelli gialli e rossi, li hai mai visti che passano sempre quando ci sono incidenti? O è successo qualche incidente? Perché è fermo di lì in zona? E ne sta arrivando un altro, addirittura, aspetta, l'altro dove sta venendo? L'altro da Olbia. Però vabbè, questo probabilmente è per un'altra cosa. Quello che abbiamo sulla testa è partito da Olbia, anche quello lì. Ma c'hai il coso radar, c'hai l'app, c'hai del radar. C'è quello flight radar 24 che ti fa vedere tutti gli aerei e gli elicotteri che ci sono sul cielo, c'è anche quello marino, è bello, e così ti vedi gli yacht, di dare che sui yacht, quanti metri è, quanto è largo, ci sono tutte le fotografie, da dove sta venendo, che bandiera c'è, eccetera, eccetera. C'era uno ieri a Porto Cervo, no a Porto Cervo, a Porto Rotondo, 146 metri, una cosa spaventosa. Beato quello che sta su. È meglio che si sprighi a farsi le ferie, perché ad agosto finiamo in zona rossa e se la ributto. Dillo agli schematici che vi sono, no, probabilmente secondo me ha portato qualche ferito al coso, al, al pronto soccorso, dai, qualcosa, però spero che non sia andata a Olbia, perché sta rientrando verso Olbia adesso l'elicottero, è venuto da Olbia a Sassari, speriamo che non sia niente di grave, che non sia, perché quello di Olbia e di Sassari è più attrezzato rispetto all'Olbia per i tipi di terapia intensiva, magari speriamo non sia successo qualche incidente, è grosso, perché quando arriva da Olbia a Sassari probabilmente c'è qualche problemino. Ah beh, senz'altro è così. Tu capretto, capretto. E ce n'è un altro che è partito da Olbia e è andato a Mono. Speriamo lo stesso che non sia successo niente. Con questo vento. Di solito gli incidenti succedono sempre di notte, quelli più strani. Capito? C'è chi va della corsia, c'è chi così, c'è chi colà. Di giorno è difficile, ma di notte vedi uno, vedi. Ma quest'anno, in questa estate ne stanno succedendo truppi, ecco quanti ne sono morti qua vicino a Sassari, ne sono morti due ali punti, dopo pochi giorni ne è morto un altro, poi ne è morto uno un'altra etica, ogni giorno ce n'è uno di questi incidenti. Sì, ogni anno ve ne è uno, vabbè, sai, la distrazione, tu sta, perché di solito sono quelli che c'erano molto grosse, i continentali, quelli che non sono abituati a fare le strade, capito? Intanto ne usciva uno fuori strada, quest'anno meno male, pochi. Hai detto bene, facendo le conna rispetto agli anni passati, tutti i motociclisti morivano, invece stanno morendo di un bel incidente frontali, gente proprio si sbatte frontale, è quello che ti meraviglia, il rettilineo in pieno, colpo di sonno, so qualche problema di salute, però cacchio, ne stanno morendo tutti per i frontali. Perché vogliono diventare, capito? Fatelo già che magari sono tardi, capito, poi c'è l'oscurità e magari vai piano, ti arriva, ti esce questo da qualche cosa, qualche minuto e ti piglia in piedi. Io lo so, cazzo, ma succedere una strada larga, tipo i punti, l'hai visto quelli che si sono ammazzati? Vabbè, la camera di a 140 all'ora in quel pezzettino, c'è la macchina qua ai vigili urbani nel piazzale, se tu la vedi non la riconosci, se non sai che macchina è, tu dici cosa è chissà, perché non esiste più niente, truncata in due, tutto a pezzi, è una cosa spaventosa. Io se papà la canzone di FM c'è adesso. E tedeschi, anche poco fa c'erano tedeschi in FM sul canale, mi sembra il canale 27, cosa del genere. Solo che è sporadica, cioè parli per mezzo minuto e poi scompaiono. Non è propagazione buona, ovviamente. Proprio di solito mi fa, quando fa molto tempo arriva la propagazione maletta. Quando c'è un caldo, c'è l'olimpio, eccetera, eccetera, fa tutto il contrario. Tipo come quando fa la neve, che c'è un silenzio perfetto, ma col PRM intendi. Che io arrivo un po' ritirata, la radio te l'avevo portata quella grande. Ah, ho capito, va? La radio grande, quella che c'era rotta, l'hai recuperata? Me la deve portare penso la prossima settimana. L'ha sistemata, messa a posto, mi ha detto, adesso la sta provando anche lui. E come la porta a Sassari, già a posto mi ha detto. Hanno fatto un bel lavoro. Ma perché ancora continente la radio? No, la radio è già Olbia, è diventata settimana scorsa la continente. Capito? E quindi l'hanno allineata bene, tutta la messa a posto, è perfetta, non c'è niente, come se fosse appena uscita dal negozio, con la garanzia. L'importante è che sia aggiustata bene, perché secondo la gara e non ha le strumentazioni, inizia ad altri problemi di disturbi, di armoniche, sfuria e malasuffi. No, già l'ha mandata la nota sulla serie, capito? Se no non l'avrebbe mandata, quindi già c'è a posto. Quando diventa qua la userò un po' io, perché se no l'avevo usata, penso la ricerca di volte, non di più. Ma come l'hai prestata una radio del genere? Dico, queste cose non si prestano, cioè. L'ho pensata perché c'era un contest e poi vabbè con cosa ci conosciamo per un po' di anni, almeno una quindicina, quindici da reciproca, hai capito? Ci fidiamo l'uno dell'altro, quindi gli ho prestata e ma ne sapevo neanche lui, una cosa del genere, capita a me a volte, se non fosse capitato a lui magari sarebbe capitato a me, tanto per dire, e magari io lasciavo le radio qua, un temporale così, di colpo, il primo fulmine che scende, track, è palazzo mio, okay, capito, purtroppo capita così, non c'è da fidarsi, quando si esce da casa a attaccare tutto in PL, anche se in PL è estate, cosa del genere, non sai mai cosa avviene dopo un'ora, dopo tre quarti d'ora, quello che hai capito, perché metti i separativi sono micidiali, manco te la accorgi, prima c'è una bella giornata calda, dopo di che arriva la passata di nuvole, magari il primo fulmine che scende e tac, calpa 400, è successo da due volte qua a Caporazzi, non è che è una volta solo. Immaginati una volta ha spaccato la cabina, quella che c'era l'Enel, capito? C'è entrato il fulmine dentro e ha beccato in pieno quei, come si chiamano? Dove ci sono i cosi dell'olio che rinfrescano le bobine, ha preso in pieno tutto l'olio in terra, in via Carbonazzi, ma olio mi, come passare in moto, poco la strampata. Trasformatori proprio qui, capite? L'unica cabina che c'era, l'unico fulmine che è sceso, poi non ha fatto nient'altro, ha fatto appena appena di acqua dal mare, presa in pieno, sono scesi i pompieri, sono scesi, c'era già il fuoco, c'era. Sì, già lo credo, sono là dentro, cacchio, sono migliaia, centinaia di migliaia di volte di ampere, cioè no, non c'è niente che esista che la possa bloccare il fulmine. Infatti anche se tu stacchi il PL e c'erai vicino a un metro la radio, se te ne entra l'antenna nel raggio di 20 metri, tutto quello che trova va nel pavimento, ti scioglie tutto, ti brucia le piante lì. E dì a Fabrizio cosa gli ha fatto. Già lo so, per l'appunto, il discorso è questo, lui è stato sfortunato e come se fosse successo, come è successo a lui sarebbe successo anche a me, capito, perché c'avevo l'abitudine di lasciare le radio con il PL agganciato, e adesso la notte già c'ho paura così, perché da poco me l'ho cambiato di ripetitore quello telefonico, hanno messo una antenna di diversa, c'ha queste cinque corna sopra, hai capito? E quindi l'altra volta ha fatto un fulmine al sole, mi ha abbagliato tutta quanta la camera, poi mi sono stato veloce e i piedi li avevo già attaccati per sicurezza. Ho preso e mi sono andato in camera, nell'altra camera a dormire, e giù detto, cazzo, se scende il fumo non è farlo se la biglia è qui, basta come scende dentro al letto. Teoricamente in città c'è meno probabilità perché ci sono tanti palazzi, prima che arrivi a te c'è sempre una percentuale minima, ma la c'è. Se vieni in campagna, c'è questo amico mio radioamatore, un ingegnere, che lui si occupa proprio di queste cose qua, e lui c'ha la casa sua, c'ha le antenne in città, abita qua vicino tra l'altro, e mi ha detto qualche antenna la metto, ma in campagna dove potrei mettere un traliccio, una cosa del genere, ha fatto il calcolo statistico perché loro fanno tutti i calcoli, è assolutamente improbabile mettere un impianto d'antenna di lì, perché cacchio, è talmente possibile che succeda, dovresti fare un impianto di quelli con la gabbia di Faraday, una cosa allucinante, costerebbe un'esagerazione, non c'è la certezza assoluta, perché gli ha fatto tanti di quei danni, mi ha detto, senza avere niente attaccato, mi è entrato in terra, ha distrutto tutto, è entrato nell'appartamento, oltre che pompa di posto, ha sfasciato strumenti che non c'entrano niente con la radio, anche strumenti da laboratorio che c'ha lui, come misuratore di rete, di cose grosse, di decine e migliaia di euro, frantumato tutto, e dice, eppure non erano collegati a niente, eppure è entrato in terra, fulminato tutto. Sì, perché fa così, sai quante volte quando uscivo con Daniele che facevamo cancelletto e c'era facciamo dei panzoni cacciolistici assieme. Andavamo bene in queste villette, la prima cosa che partiva era la scala del cancello. La prima cosa che partiva era quello. Poi porto a sonda, l'impianto elettrico di casa, la TV. Se in campagna deve stare molto ma molto attenta su queste cose qui. In città io sono in circondato, c'è la 15.000, c'è qua dove c'è stato Antonio Conti, c'è il parafulmine, poi di fronte a casa c'è il parafulmine, quello dell'oceano, e poi attaccato al parafulmine c'è addirittura queste due antenne che l'ultima che resta all'alto e si mette più alta dell'altra, la picca, e quindi è un casino. Io sono in mezzo, hai capito? Se sbaglia poco poco di notte, se sbaglia poco poco mi passa vicino, mi viene in pieno. Lo so, però diciamo, visto che c'è queste protezioni, ci sono le tralicci, il muro sul fulmine normalmente scarica nel punto più alto, lì ci sono le tralicci ad alta tensione, c'hai l'hotel vicino che c'è il parafulmine e poi altre cose. Questi tralicci del coso, della telefonia, lo stesso sono messi con un parafulmine. Io mi ricordo tanti anni fa, quando ero ragazzino, dove c'è l'officina, è scaricato un fulmine, allora c'erano i fili esterni nella facciata, i fili della media tensione, dai. L'ha troncato proprio di netto, un cavo di rame grosso, cacchio, quanto un pollice, tranciato di netto, lo vedete in terra rimbalzando questa cosa, varia tipo film di Gozo, di quelli americani. E poi quando ero ragazzino, adesso un po' più grande, eravamo a Giave d'estate, c'era uno di quei temporali estivi, Giave sui 700 metri di altezza, dai, cacchio, io non ho mai visto un temporale estivo così forte, ma proprio ti disintegrava la casa, il rumore sembrava che ti stesse crollando la casa, mai visto una cosa del genere, scaricavano tutti di lì vicino, era una cosa spaventoso. Io ho visto temporali, io a Puglia, anche quando scendevo in campagna con babbo, fino alle polottole. Quando arrivava dalla parte d'Alghero, io pigliavi il vele e ce ne stiamo andando, ma acqua e fulmini che arrivavano. Figurati tu, e quanto toccavano. Poi se ti ricordi bene una volta a Paltamona, c'era limpido, questo qua stava correndo, quello che lo stava facendo, l'ha preso in pieno e l'ha seccato. L'ha preso dove c'era la catena loro, l'ha completamente lasciato il segno. Lui è fatto tutto lì, e il temporale non c'era, in un largo di 30-40 km non c'era nulla. Cielo limpido, sereno, un fulmine orizzontale la via del Piero. Diciamo che l'avevo sentita, ma io conosco un amico che mio fratello aveva venduto il gommone, che ha scaricato, c'era il gommone nel rimessaggio fuori all'aperto, lì è esploso il corpo, è esploso il gommone, ha scaricato, c'era il roll bar, ha scaricato sul suo roll bar, non so se è esattamente lì o vicino a lì, dai, no, questo non si può sapere, è esploso il gommone, c'era il serbatoio, il carburante, non ha ciappato dubbi, non l'ha più trovato perché c'era benzina dentro, è esploso il gommone. Ma come non verrà nessuno? A noi giù ai punti un albero di pino, fatto 15 metri, l'ha spaccato in due, proprio troncato in due di netto, cioè proprio quando vedi una cosa in lunghezza, non la base, proprio l'ha spaccato in verticale, come che tu prendi un'accetta dalla cima alla base del pino, della bette, l'ha troncato in due, proprio fulminato. Sì, io lo so già, succede. Io ho visto filmati su YouTube, ma ce ne sono certi da spavento, anche in macchina che dicono che il posto più sicuro ci sia, domani Manzano, se ti pigli in pieno, se sei in movimento, se prende fuoco la macchina dentro, ti prende all'interno. No vabbè, solitamente la macchina è il posto più sicuro perché c'è isolata, c'ha le gomme, però se tu sei vicino a un finestrino, per dire, e c'è una collanina d'oro a fianco al finestrino appoggiato, ti scarica di vicino, ti scioglie a te, perché il calore che genera te lo attira. A parte quello, comunque per i fuochi sono attirati anche, gli piace molto il caldo, lo sai, lo sai. Quindi infatti quando c'è qualche temporale bisogna avere le finestre chiuse, non aperte, perché il calore che c'è all'interno, capito, attira. Quindi anche, come si chiama, quella parte dei traghetti sopra. Un un attimo la torre al telefono. Ehi, cercate fuma dei tagli, sì. E come? Eccomi, ci siamo qua la torre. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Ehi, sono entrato. Stavo dicendo, cercate fuma dei tagli, che mi piacciono molto i funghi. Non ho capito, le piacciono molto a chi? Alle fulmini, le canne fumare dei traghetti. E tutto, è perché se ti mette una bella canappa e scaplata una, che c'è, no, non c'è nessuno, quella di quelle lunghe da 8 metri, non li piace. Ah, quelle a carbonio. Anche sono a carbonio, l'importante è che ci sia una cosa alta, il fulmine viene attirato da qualunque cosa alta. C'è... una canna da pesca alta e a punta specialmente. Qui a punta è, più bella è per il fulmine. Ma la gente non ci crede a queste cose, cioè dice in realtà a me, di lì è che rischi tanto, perché se in città ci sono tutti i palazzi intorno, ma il palazzo più alto che c'è prende. Veramente non ho mai sentito io, però, non so se tu ne hai mai sentito, a Grattacielo di Sassari probabilmente c'è un qualche parafulmine, perché è impossibile, perché è il punto più alto di Sassari. Ne hai mai sentito di qualche fulmine che ha scaricato lì? No, in realtà no, però parafulmine l'ho visto. C'è, c'è perché io, ti parlo di tanti anni fa, nel 90, 97, 98, ci sono salito sopra quella specie di Grattacielo, e sta là davanti alla televisione. Non te ne dico nulla, un casino più vera, sono dovuto andare a Fusano, allora c'è San Giovanna, la buonanima. Disperato sono andato, c'è la Giovanna, guardi, gli ho detto, non riesco, gli ho detto, a far vedere la televisione a questo signore, gli ho detto, con tutte quelle antenne che ci sono, poi ho detto, c'è questo odore, non si abbondo delle... c'è sempre il coso, il riscaldamento acceso sembra che ci sia, io adesso, anche piena estate. Mi viene la nausea, poi ho detto, prendi il palazzo e poi si muove, perché si muove il palazzo, non è che se è perfetto, oscilla. E non so come fare, mi ha fatto micea, aspettando che ti do questo filtro, piatta questo, sotto miscelatore, vedrai che non hai problemi. Allora l'ho piazzato, a Manuele l'avevo chiamato col portatile, diciamo di quei portatili, allora si usavano quei sul canale 14, quei piccolini in plastica, vendeva la UPI. Ho detto, Manuele, come si vede? Dico, sì, si vede, come possiamo tirare tutto scendere, non mi sembrava vero qua. Sono stato due giorni a nausea, e non vedevo quando ero in negozio, vabbè che vedevo cazzo oscillare, gli ho detto a fare culo, sembra di essere cazzo appena sceso dalla barca. Già lo so, e questo è piccolino, tu figurati quei grattacieli americani che sono, questo è il cemento armato, quelli americani sono in acciaio, quelli oscillano anche di 2 metri quando vai su, tu Mario non te ne accorgi perché il grattacielo è lungo, è alto 300-400 metri, ma c'è la torre, a me mi ha detto uno che è salito nella torre, mio cugino l'aveva portato a torre, non so se l'hai mai vista tu, dopo i laterizi andando verso Stintino, la strada di Porto Torre, c'è quello laterizi torre, c'è quella fiamma, quindi non so se l'hai mai visto, che adesso forse l'hanno smontato. La tuccia di scarico la valvola di sfogo la chiamavano, loro c'erano quelle sfere in alluminio, c'era salito un amico sopra, dice ti veniva la nausea, vedi che sta cosa a oscillare e te ne uscivano gli occhi. Sì, già ricordo quella fiamma, perché quando mettavo in via di seto l'avevo chiara, la vedevo, figurati, vabbè la vedevo chiara la qui, la verità se fosse la qui si vedeva ancora meglio, però tra via di seto proprio si vedeva la fiamma lunga, quando c'era la petrochimica, era una cosa allucinante, quella di cui non so se l'abbiamo smontato tutto adesso, a parte tutti i treni lampadari che pesano chimica. Uno schifo cazzo, pieno di Ethernet, tutto buttato lì, dovevano fare la chimica verde, ci hanno preso per il culo, sempre, noi siamo sempre, arrivano da fuori e ci viene il bauguro. Purtroppo tutto ciò. c'è mangiatoia di lì. Anzi, ormai è tutto chiuso l'impianto, non stanno più inquinando, ma prima negli anni 80, fino agli anni 80 era un inquinamento totale. Tu vedi i cerni di pesci fosforescenti, se tu andavi a pescare di lì, nella zona del molo industriale, quelle zone lì a Fiume Santo, uscivano i pesci radioattivi con gli occhi, i mucini, cacchio con gli occhi e le spigole fuori norma. Adesso si pensa che le cose di sicurezza ambientali siano rispettate. Ma sono proprio a salire nella torre che c'è a Fiume Santo, quella è 225 metri, è una cosa spaventosa. Già l'ho vista. Ma l'unica cosa che dovrebbero uccidere è quella cagata lì che c'è a Cagliari, guarda. Non hai visto che a Report l'ho fatto vedere? Ogni settimana di notte, piena notte, prendono e inquinano, capito? E lo sanno anche loro. E ancora non gliel'hanno chiusa. Ma sai cos'è il problema? È come Porto Torres, quando c'erano 12.000 dipendenti, l'Ilva, Taranto, quando ci sono 30, l'Ilva mi pare sono 30.000 dipendenti, se tu chiudi uno stabilimento e là c'è 30.000 persone senza lavoro, cosa fai? Perché l'Ilva è da chiudere assolutamente, vuole tutto bonificato, ci vorranno 30 anni per bonificare quello stabilimento che è il più grande d'Europa per la produzione d'acciaio. La Saras giù di coso, di dove cacchio è la Saras? La a Porto Vespa, adesso non mi ricordo se è a Porto Vespa, lei sembra di lì, la stessa cosa. Quando tu lavori con quelle sostanze lì, per forza che qualcosa devi sboccare, devi avere i migliori sistemi di bonifica, però sempre qualcosa la butti giù. Sì, una volta è partito l'allarme che usciva il gruppo di quello che dovevano buttare fuori, lo facevano apposta. Tutti i terreni sono tutti inquinati, il paese non è passato la vita del paese che c'è attaccato. Tra l'odore che c'è acre, dice acre, puzzinoso, dice una cosa, dice l'odore di benzene, di questo, gas, di tutto. Eppure non hanno chiuso un cazzo. Chi viene qua, si fa di là, ci sta 30, 40 anni, si fa di là, dico prendono, beh, mirate bene in culo, adesso noi ce ne abbiamo pensato che abbiamo tutto, ma andiamo tutti a fanculo. E perché tu non so se te la ricordi la cementeria, sai quello quando funzionava la cementeria? E a voglia, la famiglia che metteva, che faceva, lo mandavano fuori e allucinate perché il tipo di cementizia è buona, capito? Era proprio la migliore che c'è. Poi hanno fatto di tutto per una magagna di mafia, capito? Hanno fatto di tutto per farla chiudere, per prendere questo cemento greco, capito? Questa valagna che la metta. E quindi hanno lasciato tutto così com'è e se ne sono andati. Non hanno purificato un cazzo, nulla. L'unica cosa che ci sono rimaste sono quelle palazzine che ancora adesso intere non le stanno crollando. E c'è un piede di merda, di piccioni e basta. Sono palazzine che ci puoi entrare dentro anche in moto. Figurati, sono lunghe, sono appartamenti da 140 metri quadri, so. Non lo so, c'era un sacco di gente, centinaia di persone che lavoravano lì, anche quello ha inquinato parecchio, tutti i comuni di Muros e Cargere, non so quanto li davano ogni anno, erano i comuni più ricchi d'Italia per abitante, per dire, c'erano 1000 abitanti in Muros, li davano per dire, sto dando cifre così, 200 milioni al comune e 200 all'altro, e come casse comunali erano, rispetto alla popolazione, erano i due paesi più ricchi di Sassari d'Italia, perché prendevano una banca di soldi così senza fare niente, come risarcimento per inquinamento atmosferico, perché tutti i fumi, queste fuliggine che facciano lì c'erano i forni, lo sai, erano mai sostanze pericolose che buttavano. E io li ho visti i forni, a voglia. Io ho visto. Poi c'è anche la sedere, la cosa, la ferrovia, avevano fatto, quindi si venivano direttamente a Cagliari. Adesso fanno tutto a Samazzai, fanno, finora. C'è da Baricomi che ci lavora lì, ancora lavora lì, a Samazzai mi ha detto. Quindi ci siamo trasferiti qui del tutto e basta, ci ho casa, mi hanno dato la casa, mi hanno dato a gratis, chi se ne frega adesso? E più di più di un stipendio. All'epoca lavorava parecchio, lì calcementi, tutti i sacchi del cemento che comprava erano tutti prodotti di lì. Poi ne hanno portati, hanno iniziato a portarli dalla Romania, dalla Grecia, che costavano la metà di quanto costava la loro la produzione. Alla fine dice, se il sacco qua costa 3 euro e questi ce l'hanno 1,50 euro e viene spedito con le navi, alla fine dice, poi a Cagliari l'hanno ricontinuato, non ho mai capito per quale motivo lo stanno tenendo in opera quello stabilimento. Non c'è solo Samassai, ce n'è un altro in altra Italia c'è di stabilimento. Sempre lo stesso paradone. Quindi non lo so, ma non conviene più produrre quelle cose lì, perché nei paesi poveri la manovra non costa nulla, questi paesi dell'est, cioè conviene amore come il carbone quando andavano a produrlo a Sulcis e poi alla fine andavano, lo prendevano dalla Bulgaria, la Romania e costava meno della metà ed era migliore di quello del Sulcis, perché quello del Sulcis era pieno di zoppo. Purtroppo c'era un sacco di interessi per la popolazione, nel senso c'era tutto l'indotto eccetera eccetera, poi non può licenziare nessuno, allora quel coso l'hanno mandato a Fiume Santa, l'hanno tenuto per un po', si sono accorti che era altamente pericoloso e tossico, poi sono andati a olio combustibile, adesso non si sa che cacchio ci stanno mettendo a farla camminare con la centrale. Ci metteranno carbone, dopo di a carbone ancora, il succo è pieno. No, carbone sono da tanti anni che non lo usavo più perché rovinava gli impianti, perché c'era lo zolfo e creava rotture, si cristallizzava e faceva tanti problemi ai camini, alle cose, alla fine. Infatti quel cammino veniva buttato anche per quel motivo lì. E ho sentito da un funzionario di lì dentro che ne vogliono buttare anche quello grande, perché dice ci vuole troppa manutenzione e prima o poi ne lo buttano, perché è troppo rischioso tenerlo, perché se ti metti a sistemarlo costa più che buttarlo giù. Assolutamente no, buonasera, non sono d'accordo. Te lo dico perché ci sono in mezzo, la centrale sta andando a carbone, alla grande, buonasera a tutti. Mi faccio la luce e poi riprendo, ciao. Ciao Gio, ma non è vero a carbone? Mi hanno detto che non lo stavano più usando, ma non è carbone nostro. No. Non è carbone, noi lo importiamo, il carbone, nonostante le nostre miniere. Comunque va a carbone alla grande. Non lo sapevo, perché io sapevo quello del Sulcis, vabbè ormai sono tutte chiuse le miniere, per cui non ce ne sarebbe neanche più. Ciao Eugenio, ti rilascio la cosa, Antonio, per i saluti, vai Antonio. Ciao Eugenio, ben sentito. Se vogliamo carbone basta andare a posto, attaccato alla Eon, c'è 200 quintali di carbone in mezzo all'acqua c'era. Andavi lì, ti facevi i soldi, da tutto recuperato e adesso non so a chi lo diano. Facciamo le petroliere noi, con i carrozzonti di carbone, mettiamo sopra il nastro, capito? Carbone. E comunque ti posso garantire che il carbone c'è e continua a viaggiare, alla grande. Vabbè, ci sentiamo domani, ciao Fortuno, ciao Robè, a dopo. Faccio luce. Ciao, buon tutto là. E coso, il carbone per la calca Befana, c'era il carbone, guardi. A chi tu non trovi così il carbonale in piazza Salvatore Ruggiu, l'hai conosciuto Antonio? Io l'ho conosciuto. Se ti ricordi c'era anche un coso insieme al carbonaio. C'era un signore che aveva un asino, te lo ricordi? Che si faceva dalla vallata di Zeddu con latte, no? C'aveva il latte da una parte e all'altra dell'asinello. E lui ogni mattina voleva il cazzo camminare portandolo nella latteria che c'è, anzi che c'era tutto a fianco al carbonaio, c'era una latteria lì c'era anche. Io già me lo ricordo, ma tu te lo ricordi a Pinuccetto il Moro, te lo ricordi? Pinuccetto il Moro è CD. E lui non veniva a caricare il carbone, siamo sino a 10-12 anni fa, dai, veniva con quell'app e caricava il carbone e lo portava a Buduzzo, dove era di Buduzzo? Sì, ma lo faceva anche... mi sembra lo vendeva lui il carbone, se arriva a Sassari da Pantalona a vendere il carbone, faceva il contrario, veniva con furgone e vendeva il carbone che direttamente di a Pantalona, quello mi sembra senso fa l'autista di un camion e viaggia, non l'ho più sentito a Baracchino infatti. E minimo 10 anni che non lo sento io, dagli 8 ai 10, diciamo di più 10 che 8, e molte volte l'accompagnavamo noi quando camminava su e se ne ritornava, molte volte gli facevamo compagnia. C'aveva un'app, mi sembra, un'app di quelle 400, quelle non 50, quelle un po' più grosse. No, era un furgone, no, furgone osso. Figurati. Un Ducato mi sembra c'aveva. L'antenna centro cappotta di quella modello vecchio mi. Lui usava quelle antenne lì. E che era che va via l'app? Cazzo, uno di questi c'aveva l'app, forse qualche altro. Ma che? Finangelo può essere che avesse l'app. Boh, non te lo so dire. Se Finangelo aveva l'app, non te lo so dire proprio. Comunque Pinocchetto c'aveva il furgone. Me lo ricordo perché veniva, quando veniva a Sassari passava abbastanza spesso qua. E io sono andato anche a casa sua, insieme a Claudio, era in sala di Lamantova, lì a Budusio, figurati. Lui mi ha detto che aveva cambiato lavoro, faceva l'autista e stava preso un camion e viaggiava col camion, da quanto so io. Tu non l'ho più sentito. Non l'ho più sentito. Manco al, cioè, ma la prima non ho mai più inteso. Poi magari al telefono, se c'è ancora quel numero del telefono, via che il telefono avrei, che fine ha fatto, però. Ma non tanto che mi chiamava, poi è sparito del tutto, a meno che non si sia sposato di Abuduso, a meno che non abbia mollato tutto e ci abbia un'azienda di famiglia, stiamo andando avanti. No, io di persona no, io quello dell'app lo sai chi era, adesso pensandoci bene, che si metteva di fronte, prima dopo il Tanit, che adesso hanno fatto quel McDonald's, si metteva lì e vendeva i ricci, cioè aveva un po' era un'app piccolina, un'app 50, non mi ricordo come si chiamava. Forse allora è qualcuno di Alghero, perché di solito qualche vendevici sono quelli di Alghero. Venivano a Sassa e si mettevano a vedere i ricci, spesso. E proprio più di uno, o in macchina o in moto, facevano i ricci e poi li vendevano. Anche quello di no, mi sto confondendo, quello di Buduso non aveva, c'era già detto, c'aveva il furgone, perché come ti va a portare la Buduso in app, no? Non faceva. E dimmi una cosa, ma quanti anni poteva avere Pinocchetto al mondo? Io non l'ho mai conosciuto. Pinocchetto c'aveva penso 40 anni, 45. La metà non glielo mai chiesto, ma sai sono a 45, 50 anni già ci via. Ma adesso o all'epoca? Tu stai parlando dell'epoca o di adesso? Adesso, all'epoca è vabbè, più giovane, ce lo credo. Io pensavo che fosse molto, ma molto più grande, addirittura pensavo che all'epoca avesse una 60ina d'anni, almeno la voce sembrava una voce di una persona grande. No, già è giovane, già è giovane. Oggi più inteso, vabbè. Qualche giorno di telefono avrei, se è abuso, oppure che sei fuori in camion. E adesso passaggi di autisti che molte volte li accompagnavamo, ti ricordi quello che andava sempre a Olbia tutte le notti, lo accompagnavamo, che non mi ricordo come si chiamava, te lo ricordi? Quindi uno c'era che accompagnavamo a Olbia, poi c'era Piero Andrea, se ti ricordi, Papa Alfa, quello è sempre in giro, era quello si è sposato, è stato la circolazione, nel primo minuto l'hai più sentito. Poi quando rientrava noi accompagnavamo al rientro a Fortunato, tu ricordi che poi conosco bene il cognato. Fortunato Latte, si chiamava di cosa? Quello che andava, adesso non me lo ricordo, che lui tutte le notti verso le 9:30 si camminava per imbarcare, no vabbè anche prima, dai. Ma non potevamo, quelli più vicini, diciamo noi, quelli in alto, tipo te e me e Claudio, riuscivamo a portarlo sino a Perfugas. Michele Siriuno non può essere, perché Michele faceva solo la mattina, non mi ricordo il nome di quello che ho capito che sì, ma non mi ricordo il nome adesso. che era con l'eco, cazzo, non mi viene la parola, era in gamba, era molto... E c'era un bel segnale, c'era un bel amplificatore, poi era la radio, lui ci faceva sentire, c'era un camion grosso, e un rimorchio grosso, adesso non mi viene il nome. Come cavolo si chiama? Credo che era collega di Gigino. Non mi ricordo. Mi puoi tagliare la testa adesso, non mi la metto più. Sono passati un bel po' di anni. Infatti, cosa? Gigi Bucala partiva la mattina. Questo partiva di notte. Comunque non c'era solo lui e lavorava di notte, anche c'era cosa? Principale con i furgoni, portavano i giornali, per medicinali. No, non me lo ricordo. Poi c'era anche Lello Gamba di Legno, che era il compare di cosa? Di Fortunato, che non ci conosciamo bene di persona da tanti anni. Magari hanno anche cambiato lavoro, No, Nello sta ancora lavorando perché è venuto dopo col padre in officina e abbiamo parlato proprio pericolo e trova che lui ha avuto un problema brutto alla schiena e poi all'occhio, cazzo, poveraccio, e ha rischiato di perdere l'occhio, lui è andato alla grande, cazzo, una sponda gli ha spaccato, l'ha preso in pieno all'occhio, ma noi sono riusciti a salvarlo. Gianni Gebbone aveva avuto anche un incidente, in pratica dalla parte di nuvola è andato, ha praticato il cambio e tutto un tratto l'ha praticato in salita, un tratto piglia, si muove il cambio e si è fermato a 20 cm dal suo petto. Dice, mi sono visto morto Antonio, mi ha detto. Da quel giorno si è rimasto quasi due mesi e si è fatto di cosa in ospedale. Era lo suo lavoro rischioso, poi ci vuole massima attenzione, con quei mesi lì basta un attimo, cazzo, non è come la macchina, rallenti e ti freni, un metro del genere, queste motrici con rimorchio pesano a tonnellate e quando sono cariche, ti esce un macco da una strada, fa una strage. Sì, ho visto anche con voi io mi camminando da soli, figurati, c'era, siamo Antonio Marconi questo, ma che c'è il furgone, ci vuoi io, no, mi stavo bevendo una birra qua sotto la Kuwait, parcheggia proprio a cerca al distributore per mettere, c'era, ha messo la pompa, prende, si allontana, 3 secondi, qui non parte il furgone, fermati, è sicuro al muro che c'è di fronte alla villetta, e là sta bene, se si sbaglia di mezzo, di un metro, scende in via Calofrici e ammazza qualcuno. Via Calofrici ho visto un sacco di cose, quando ero ragazzo, camion di mattoni, prendono la curva, la salita di via Carlo Felice, ti ricordi c'era il bar di signora Maria, che adesso Cicci sono messo all'interno, c'è la curva via Corradutta a sinistra, allora, cazzo, sai quanti camion prendevano quella curva, negati da tutto il lugar in terra, bottiglie di Coca-Cola, bottiglie di acqua, latte, di tutto il più ho visto, perché prendevano la curva, non tanto veloce, però il carico non ha legato bene, brum, tutto in terra, una volta ne sono entrato, un camioncino da signora Maria, te ricordi la signora Maria Conca, c'è tu? Già me lo ricordo, già. Qua era pieno di ricoso, c'era scandellare, tu figurati, quando arrivavano questi lunghi, era un casino, vedevi i polattini, il cemento, di tutto lo perdevano. Io mi ricordo quello che aveva fatto più macello di tutti, anche mia femmina avevo visto, ma non ha ammazzato quest'uomo davanti a me, io me l'ho guardato così, ero con la macchina ferma, ha preso la curva e ne sono caduti tutti i forattini, a Giumano l'ha ammazzato, quest'uomo è rimasto scioccato, perché è rimasto immobile, spaventato e ha iniziato a cadere tutta la roba, e poi le bottiglie, la cosa che faceva per rumore, le bottiglie di retro, quelle di San Martino, c'è su roba di, a tante volte è successo. E qua è cosa qui che c'è di tutto di più. Tra scandellari e tutto il resto, capito? Adesso già il sabato vengono i furgoni per caricare dello spino, anche lì sono ben tranquilli, no? Perché quando entrano intanto qualche fiancata la fanno. dice perché quelli con il cane della molletta non li hai visti ultimamente, sfidiati, ho visto delle cose da mettersi le mani in testa col camion alla rotatoria di Deltaniti, poi sono andato da 50, 60, a manettone, ha preso la curva e ha detto questo si ribalta, proprio fuori di testa, poi passando in certi viottolini li ho visti, correndo, ti metti le mani in testa, io dico se sono muti, l'altro giorno ne è venuta una in ufficiale, detto, questo si è sbattuto e gli ha distrutto tutta la macchina, prende le macchine, un ragazzino. Sì, c'era una maniera della guida veloce, un sacco di ragazzini, capita per una perché di partenza, la guida veloce, capita per farsi vedere, poi magari trovano qualche cane, qualche gatto che gli passa di fronte, ciao, e c'entra qualche negozio. E perché quelli di mondo convenienza non te ne è mai capitato di quelli, siccome quelli devono finire le consegne, se no li mettono la multa, devono fare le cose, gli operai stanno correndo da una parte alla, tutto li vede alla 131 sorpassando quei camion grossi, quelli alti, carichi di roba, ti fanno certi sorpassi, ti dicono, ma io ti sono mancati, perché devono rispettare i temi, devono rientrare subito a casa, inizia la mattina alle 6 a lavorare quelli e poi a sera devono fare 10 consegne, se non fai tempo devono correre come dannati. Io ho amici che lavorano lì, ma una cosa spaventosa quando li fanno camminare. Come Amazon fanno? Anzi no, come Amazon. E poi è la stessa identica cosa. Come quelli che stanno nascendo adesso, quei rider, Glovo, eccetera, eccetera. Se non lo porti la merce in quell'orario, capito? In pratica ti metto in posizione, eccetera, eccetera, e quindi per di sotto. Ma ti pare che se uno in bicicletta si deve ammazzare, fa portare un paio di pizzi, un altro se non se ne arriva a fanculo. Così anche da Amazon, la stessa cosa, si sembrano dei robot. Infatti si stanno incazzando tutti. Più bello tranquillo, se ne sbatte i coglioni, dice, se ti va bene questo lavoro lo fai così, se no prendi più e te ne vai, capite? In America fanno così, fanno. Infatti passano camion, ma camion, oh, uno attaccato all'altro. C'è anche gli aerei, diciamo, figurati, c'è roba di 15, 18 aerei per portare la merce, capito? In tutto il mondo. C'è una flotta a casa quel guasto. Mi subito così si è fatto, a spese degli altri. Non so perché quelli di HL, TNT, Bartolini sono tutti facendo le gare perché devono rispettare i tempi di consegna e purtroppo qualche volta ci scappa il morto, purtroppo è così. Cioè lasciamo un attimo in bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare, avanti su 10 che vuole entrare, se no riprendi tu. Saluta, io rimango ancora 5 minuti, poi vado a mangiarmi qualcosa, che per un caso non viene niente, mi sto sciogliendo. Ho visto quelli che hanno vinto la medaglia d'oro, il coso, i 100 metri è saltato, non li hai visti? Non ho visto, ma è strano che non abbia, non ho visto il sabato io, il ragazzo sabato, Orso, sembra se che si chiamava, strano che l'abbiano, o l'hanno tolto. No, non si è qualificato per la finale, perché lì mi sembra 7-8 non ne possono fare più, e lui in semifinale l'hanno escluso perché è arrivato fuori i tempi, però probabilmente se c'era 4%, se la fanno, se riusciamo a entrare nella 4%, anche lì possiamo dire la nostra, perché ce ne sono 3 o 4 di velocisti che sono discreti. Adesso vediamo un pochino, comunque sono contento, questa dai 100 metri, dai tempi di Bolt, cacchio che in Europa non c'è nessuno, l'ultimo, vabbè, Bolt, quando c'era Bolt la riguarda tutti, non ce n'era uno forte che riusciva, e aveva fatto un tempo eccezionale, nuovo record italiano, cioè l'altro giorno ha fatto 9,94 ed era il record italiano, e adesso ha fatto 9,80, una cosa spaventosa, cioè, ed è giovane, va un fisico, hai visto quanto è grosso lui? Già l'ho visto già stasera. stanno cominciando, cioè avrei quella velocità, io non ci riesco a correre così la verità, anche perché sono piccolo e basso, ma quelli sono abituati, capito, da piccolini si mettono a correre. Anche se queste cose qua, queste muscolature così spaventose, io ho sempre qualche dubbio, come dei ciclisti che pigliano neanche cosa, qualche cosa strana, perché questi miglioramenti così, troppo veloci questi miglioramenti, ma vado per lui che c'è tutto pulito, ma i ciclisti che fanno medie più di 50 km orari, cioè tu vedi la media, fanno 200 km, alla media dei 48, 50, 51 pure di media, lo sai vuol dire? Io l'ho visto salire, quando c'era l'altro giorno, Slovenia, via Carlo Felice, io nemmeno discesa ci cammino a quella velocità, e chi ti correndo quanto in salita, mi sono messo la mano in testa. Buh. Guarda che una volta hanno fatto una gara ciclistica, e eravamo tutti i CB, facevamo tutto il coso, tipo scotta, qualcosa del genere, mi... Grazie Andrea, era in un pezzo quasi alla, mi sembra che era nel cubo di Budusso, una cosa del genere, 90, no, no, 95, che ce l'aveva attaccata a culo, ce l'aveva questo, detto, Andrea, se non cammini, detto, con questo per entrare al cofano, gli ho detto. No, ma poi non parliamo in discesa, corrono come dannato, ogni tanto si frattumeggia ne qualcuno. Tu li hai visti quando c'è l'arrivo, che sempre normalmente è un po' in discesa, in rettilineo, che corrono come pazzi, oltre 90 all'ora arrivano un certo tipo. Poi non parliamo di quelle scese, quei tornanti, quando scendono, pure di testa. Infatti sono tutti fratturati, ogni tanto se ne prepara qualcuno. Antonè, io ti lascio, vado a mangiarmi qualcosa, poi domani e domani, se dopo una giugana ci sentiamo, se no tutto a posto, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, grazie per la chiacchierata, alle prossime, ciao. Ciao, domani ci sentiamo, stai bene. Buonanotte, buona cena.